Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Carlo Cottarelli, classe 1954, dall'88 a Washington al Fondo Monetario Internazionale. Nel 2013 viene chiamato in Italia da Enrico Letta, diventa il commissario per la Spending Review. Dovevano essere 3 anni, ma dopo uno solo, lo scorso ottobre è tornato al Fondo Monetario Internazionale, nel cui consiglio esecutivo rappresenta l'Italia e altri 5 stati. È appena uscito per Feltrinelli il suo libro La lista della spesa, la verità sulla spesa pubblica italiana e su come si può tagliare. Ecco, dottor Cottarelli, qual era la prima cosa da tagliare secondo lei? La prima cosa da tagliare sono stati fatti dei tagli a partire dagli acquisti dei beni e servizi, quindi credo sia stato si giusto partire da lì. Ecco, comunque dopo solo un anno lei in qualche modo si è arreso. È stato lei a volersene andare o Renzi a chiederglielo? No, beh, sono stato io, quello lo dico chiaramente, insomma. Il fatto è che comunque fare il pendolare transatlantico era complicato, quindi dopo un anno pensavo comunque di aver dato un contributo sufficiente. Ecco, ma era tornato in Italia pieno di speranze? Le speranze non sono mica sparite, non ancora. Qualche risultato c'è stato in termini di riduzione della spesa, ci sono state anche delle riforme che sono partite, che stanno andando avanti, quella degli acquisti di beni e servizi, certo. La riforma della pubblica amministrazione. Poi bisognerà andare avanti nei prossimi mesi, non è una cosa che si possa fare in pochi giorni. Un anno però, avendo accettato un incarico di 3 anni, va via dopo un anno, viene il dubbio che in qualche modo qualcosa non ha funzionato. Beh, oddio, come spiego nel mio libro, fin dall'inizio mi era stato inizialmente la proposta era di venire per un anno. Ah, ecco, ho capito. Per cui dopo un anno si riconsiderava i 3 anni, derivava dal fatto che comunque una certa margine ci voleva per lasciare il mio lavoro precedente. Comunque certo. L'idea inizialmente era di un anno. Insomma, è contento di essere tornato a Washington? Il lavoro qui ovviamente è un lavoro che conosco molto, essendo stato al fondo l'Italia comunque mi manca e spero a un certo punto di ritornare. Sì, certo. Senta, lei racconta nel libro che la difficoltà maggiore è stata quella di interagire con un sistema di capi di gabinetto e di capi di uffici legislativi che non le davano i documenti, cioè sostanzialmente collaboravano poco, male. È una giunta inestricabile secondo lei? Il problema era che io ero un po' un'esagerazione, non mi arrivavano i documenti. Vabbè, qualche volta non mi sono arrivate certe cose. Il fatto è che io ero in una posizione, non ero parte della struttura vissuto come un corpo estraneo, quindi, in qualche modo, ma forse neanche intenzionalmente, sì, semplicemente sì, non era parte della procedura il fatto che certi documenti passassero da me per essere visionati, diciamo. Insomma, non parlava quel linguaggio, diciamo. C'era anche un problema di linguaggio, senza dubbio. Il linguaggio è un linguaggio molto del diritto amministrativo, mentre certo. Io sono un economista, guardo. Insomma, un po' boicottato dall'interno, si è sentito? Un po' boicottato dall'interno? Sì, ma insomma mi dicono tutti, fra l'altro, che rispetto alle esperienze precedenti dei commissari io sono riuscito anche a lavorare. A fare un miracolo, un piccolo miracolo. più facilmente di quanto avevano lavorato, ero meno isolato di quanto avevano lavorato i precedenti. Però certo, un certo senso di isolamento in certi momenti. Ma visto da fuori e dopo questa esperienza un po' forte comunque, è un po' lì il cancro del paese? Dunque io eviterei prima di tutto... Vabbè, guardi che del cancro si guarisce anche, quindi... Però, può essere un cancro guaribile. Io ho visto che sono la maggior parte dei funzionari pubblici sono molto impegnati, sono dedicati. Non è tanto il fatto che non sono impegnati, non sono dedicati, è proprio il modo di pensare che tende talvolta a rallentare l'innovazione. Cioè, comandano loro e vogliono tenersi il potere, per capirci. Una cosa che secondo me sarebbe molto importante sarebbe evitare che un dirigente pubblico stia nella stessa posizione per più di 4-5 anni. Creano delle rendite di posizioni certo. Che sono molto dannose. Mi sembra che la riforma Madia vada in questa direzione. Esattamente, va in quella direzione. Io però metterei l'obbligo al cambiamento, non la possibilità di cambiare, ma l'obbligo, adesso non so gli ultimi sviluppi testo di legge, certo. Metterei l'obbligo di cambiare dopo un certo numero di anni. Senta, ma come si fa a tagliare la spesa pubblica senza causare dei danni collaterali sul piano sociale? Allora, il problema fondamentale è quello di fare cose che siano mirate, quindi andare a vedere prima di tutto le organizzazioni che già sono efficienti, distinguerle da quelle che non sono, naturalmente, non sono efficienti. L'altra cosa è cercare, per quanto riguarda una voce che è molto grossa, tutti i soldi che a vario titolo lo Stato e le pubbliche amministrazioni trasferiscono a famiglie e imprese, andare a vedere dove c'è effettivamente bisogno di questi trasferimenti. Però adesso onestamente è difficile immaginare che non ci siano danni sociali collaterali, naturalmente magari necessari. Insomma, danni sociali, se qualcuno ha un reddito comunque sufficientemente elevato, una riduzione dei trasferimenti non causa di per sé un danno sociale. Lo stesso vale per tutto quel settore dei trasferimenti alle imprese, che forse non sono necessari. Nel mio libro c'è un intero capitolo sui trasferimenti alle imprese, che molto spesso non sono neanche imprese. Sì, però poi non riescono neanche, perché in realtà poi la pubblica amministrazione, malgrado tutte le dichiarazioni, non è che paga con così grande facilità e velocità. Dunque, lì c'è stato un grosso miglioramento, di cui riporto anche i dati nel libro. C'è stata una riduzione molto forte dei ritardi di pagamento, soprattutto nel 2014. Dottor Cottarelli, ma la parte del leone nella spesa pubblica comunque la fa soprattutto l'INPS, cioè è il costo delle pensioni a rendere difficile la riduzione delle tasse? Beh, insomma, lì su una spesa complessiva di circa 720 milioni, spesa primaria io parlo, al netto degli interessi, perché questi non si possono oggettivamente toccare, la spesa degli enti previdenziali di circa 330 miliardi, la spesa per pensioni è 270 miliardi, quindi tanti. Si tratta una quota molto, molto elevata. Ma secondo lei è perché l'Italia è troppo generosa con i suoi pensionati? Per due motivi: uno è semplicemente la demografia, il fatto che, che invecchia la popolazione il paese, è più anziana di altri paesi, però una parte è dovuta al fatto che in passato chi è andato in pensione non in linea con i contributi che erano stati pagati. Ecco, ma se fossero tutte pensioni contributive dal più presto possibile, il problema delle pensioni secondo lei sarebbe risolto? Se fossero tutte contributive, credo che il risparmio sarebbe molto, molto forte. Però in che ordine? Ha un'idea? Si parla senz'altro di diversi parecchi miliardi, ma il punto non è quello, perché ovviamente una cosa di questo genere non si può fare, perché si andrebbe a toccare anche i diritti acquisiti. Sì, no, ma comunque Le pensioni basse, quindi si dovrebbe fare una cosa, eventualmente, se si volesse fare, soltanto mirata alle pensione al di sopra di una certa soglia. Senta, dottor Cottarelli, il procuratore di Venezia, Nordio, dice che meno leggi e più semplificazione nelle leggi, appunto, sarebbe il toccasana contro la corruzione e anche contro la spesa. Lei è d'accordo? Sì, sono d'accordissimo, anche di questo parlo nel mio libro. Sì, non è soltanto... No, ma io le faccio le domande proprio a partire dal suo libro, infatti. Assolutamente. Non è soltanto una questione di complicazioni, quindi di inefficienza, è anche una questione di poca trasparenza, e poi la questione del fatto che troppe leggi vuol dire che purtroppo molte leggi non sono scritte, ma non vengono effettivamente applicate. Si mettono delle scadenze che però non sono considerate scadenze vere. Senta, dottor Cottarelli, in Italia ci sono 36.000 centri di spesa autonoma nello Stato. È un altro cancro, questo cancro, diciamo sempre del cancro guaribile, però un po' cancro lo è, è così? È senz'altro un'inefficienza. E quante potrebbero essere semplificati, tagliate? L'obiettivo è di ridurre i centri di acquisto a 35. Da 36.000 a 35, un bel salto. Sì, esatto. Al di sopra di acquisti, ovviamente per acquisti piccoli non ha senso. Se io devo comprare una matita, ovviamente. Al di sopra di acquisti di una certa dimensione bisogna centrare, e si stanno realizzando questi 35 soggetti aggregatori sulla base della riforma che abbiamo cominciato l'anno scorso. E quindi lei è ottimista da questo punto di vista? Sì. Vedremo poi i risultati. stadio, c'è sempre spero che possa fare, certo. Cioè, alla fine, cioè, gli annunci è una cosa critica, sta andando avanti dal momento, fine giugno dovrebbe esserci l'elenco di questi 35 soggetti aggregatori. Senta, dottor Cottarelli, le province sembrano la causa di tutti i mali, in realtà rappresentano l'1% della spesa, i comuni l'8, mi pare che il problema maggiore ce l'hanno le regioni. Beh, le regioni bisogna distinguere tra due cose, dei 140 miliardi, sì. 140 miliardi di spese alle regioni, 110 sono la sanità, il resto è una cosa che può essere toccata più facilmente. Ecco, lei della sanità, lei però sulla sanità è controcorrente rispetto al pensiero comune, è molto interessante, perché lei dice che il controllo della spesa del Servizio Sanitario Nazionale funziona bene, quindi più o meno la sanità è a posto allora. No, nel suo complesso funziona bene, in media funziona bene, poi bisogna andare a vedere però che all'interno delle varie parti del sistema sanitario nazionale ci sono delle parti che funzionano male, ma è questo soprattutto in quest'area che bisogna distinguere tra chi è già efficiente e chi non è efficiente. Comunque diciamo che se nel suo complesso funziona bene, già un buon risultato, ecco, in questa Italia. Se guardiamo i confronti della dinamica, al contrario delle pensioni, dove se guardiamo la dinamica della spesa per sanitaria in Italia negli ultimi decenni, è andata abbastanza bene rispetto agli altri paesi. Senta, le spese militari sono ovviamente una scelta politica primaria, però lei quanto, fatta salva questa cosa che è ovvia, lei quanto pensa che comunque si potrebbe tagliare nella spesa militare? La stima che avevo fatto era di tra i 2 miliardi e mezzo e i 3 miliardi. Soprattutto tagliando cosa? La cosa fondamentale rispetto alla... Beh, ovviamente c'è la questione delle missioni all'estero, che è una cosa politica, il costo non è indifferente, si tratta di quasi 1 miliardo all'anno, quella è una scelta politica. Al di là di quello, la composizione della spesa militare italiana è molto sbilanciata verso il personale rispetto agli altri elementi di spesa, che sono gli armamenti e l'esercizio. Cioè troppa gente pagata troppo. Quindi si tratterebbe di ridurre più rapidamente di quanto è previsto, comunque una riduzione. Sì, è previsto, la riforma Pinotti lo prevede. Senta, esattamente, però quella riforma è una riforma a spesa invariata e allora invece potrebbe dire, cerchiamo di ridurre la spesa. Senta, dei 5 corpi di pubblica sicurezza, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, quanti ha senso che resistano? Cioè che tipo di accorpamento prevedeva lei? Dunque, io non avevo una riduzione nel numero dei corpi, perché quello lì ci possono essere diverse soluzioni. Sì. Quello che dicevo è che il numero di persone che lavorano in questo settore, di nuovo rispetto agli altri paesi, sembra essere più troppo elevato. Ma di quanto? Ovviamente, in percentuale troppo elevato di quanto? Facendo dei paragoni con paesi omologhi. Io lì avevo una stima, adesso non mi ricordo esattamente avevamo fatto una stima. Guardi, non glielo so dire al momento. Avevamo fatto una stima, adesso non me la ricordo specificatamente. Senta, dottor Cottarelli, nel suo libro lei parla di mancette, cioè di marchette, di che cosa si tratta? E si tratta di quelle piccole spese che vengono approvate dal Parlamento, molto spesso in legge di stabilità, dove non ci dovrebbero essere per legge. Entra di tutto all'ultimo momento. E che spesso vengono introdotte all'ultimo momento. Quanto le quota queste marchette, mancette? Ma noi avevamo, non sono cifre enormi alla fine, però sono significative, noi avevamo calcolato che se si andavano a prendere le spese al di sotto dei 10 milioni, quindi anche, ma cose anche però che potevano essere di 100.000 euro e così via, si arrivava comunque a un possibile risparmio di tra i 100 e i 200 milioni che si potevano togliere. Senta, ma quindi i costi sono cifre enormi, però anche queste comunque sono significative. Senta, i costi della politica, che sono un tema caldissimo nell'opinione pubblica, sono un problema di quantità o di qualità della spesa, secondo lei? Direi soprattutto di qualità. La spesa complessiva sono circa 5 miliardi rispetto, sì, appunto 720 miliardi di spesa primaria, sì, quindi non è una cifra molto alta, però è molto significativa, perché insomma quelli sono, se si vogliono andare poi a intaccare voci più grosse di spesa, quindi chiedere un qualche sacrificio anche bisogna partire dai costi della politica, però qualche riduzione c'è stata, sì, in però questi, adesso in come anni, lei non so se segue, c'è questo grande polemica sui vitalizi, insomma, che sono davvero una cosa difficile da capire e da accettare. Cioè, sì, da capire forse si può, accettarli forse è più difficile. Sì. Ecco, la RAI, la RAI ha 12.500 dipendenti contro i 4.700, sì, di Medias, 4.000 di, sì, Sky, non parlo dei 1.700, sì, giornalisti. Lei cosa prevedeva di fare nella sua riflessione? Noi avevamo segnalato che c'era una possibile area di risparmio, non siamo arrivati alla fase di definire, però chiaramente è una cosa, avevamo qualche raccomandazione specifica relativa per esempio alle sedi regionali, certo, adesso, mantenere una sede, e lì c'è stato un piccolo cambiamento, ma non è tanto forte quanto noi avevamo suggerito, che era proprio di dire si deve fare informazione regionale, ma questo non vuol dire avere una sede in ogni, certo, regione per fare informazione regionale, ci, certo, si può anche mettere insieme diverse regioni. Sì, quello poi è un patrimonio, però se sono palazzi poi alla fine sono patrimonio anche. Sì. Senta, i 300 milioni che riceve l'istruzione privata, lei li avrebbe tagliati? Sì. Io dico lì soltanto che nella Costituzione c'è scritto che l'istruzione privata è ovviamente possibile, però deve essere senza oneri per lo Stato. E quindi lei dice in base alla Costituzione... Questa senza oneri per lo Stato è stata interpretata che non è obbligatorio per lo Stato dare finanziamenti all'istruzione privata. Poi io non sono un giurista, però senza oneri per lo Stato. E le auto blu o una battaglia simbolica? È una battaglia simbolica, si sta facendo qualcosa nei ministeri. Ma in realtà quanto costano queste auto blu? Perché non si riesce a capire quanto costano nell'insieme, grosso modo. Allora, costano circa 300 milioni l'anno, tutte le auto blu, comprese quelle dello Stato, però il grosso di questa spesa non sono le auto blu, sono gli autisti blu, nel senso che le spese di esercizio delle auto blu, come poi gli acquisti e così, certo, via, di questi 300 milioni sono circa 40-50 milioni, il resto è lo stipendio degli autisti blu. E le autisti scorte? Blu che però molto, com'è? E le scorte? Le scorte sono circa 170 milioni e lì non abbiamo fatto nessuna proposta specifica, se non quella appunto, certo, di andare una a valutazione se effettivamente, che non politica, possiamo andare, certo, a vedere i singoli casi. No, naturalmente. Senta, il suo libro si apre con una citazione di Francesco Guccini. Sì. Senta un attimo. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesto, forse farei lo stesso. Cioè, questa è la somma del suo lavoro, no? Ma sì, perché molti quando sono venuti in Italia mi hanno detto ma chi te lo fa fare, sarà una cosa impossibile, eccetera. Io l'ho fatto e secondo me è stata una cosa utile. Ma ne è valso la pena dal suo punto? La canzone dice anche forse perché sono fesso. Senta, quindi, ma sostanzialmente, siamo in chiusura, ne è valsa la pena? Sì, secondo me sì. Cioè, ha imparato delle cose sul suo paese che la tengono più lontana o più vicina dall'Italia? No, io continuo a pensare di voler tornare in Italia quando ce ne sarà una possibilità. Per fare cosa? Cosa le piacerebbe fare? Stavolta di venire con la mia famiglia, per, sì, evitare di fare il pendolare. Ma cosa le piacerebbe fare in Italia? A me, io sono, ho sempre lavorato nel settore pubblico, a dire la verità, quindi... Si sente un uomo visto... dello Stato. Del settore pubblico, sì. Senta, un'ultimissima cosa, dottor Cottarelli, ma alla fine la spending review di Cottarelli realizzata completamente quanto valeva? Io ho stimato 32 miliardi da ottenere in 3 anni, di questi 12 miliardi in qualche modo sono stati fatti, poi si sono decisi di aumentare alcune spese per circa 4 miliardi, quindi il risparmio netto 8. Alla fine è stato di 8 miliardi. Mario, valeva la pena? 8 miliardi? Devo dire dei che... Dei 32 a 8? Ti posso dire una cosa? Sì. Vabbè, Io ho ascoltato con attenzione l'intervista di Cottarelli. C'è una grande delusione sotto. Anche lui cerca di celarla. Cioè, è tornato in America contento. Ma te credo. Guarda, io ne ho conosciuto un altro che doveva fare la spesa, anche bene, Enrico Bondi, che insomma, certo, aveva un'esperienza colossale in materia aziendale. Niente da fare. Niente da fare. No way. Mix 24. Dire sì, dire mai, non è facile, sai. Se tutti quanti siamo in orbita nella follia, io non so più chi sei, non mi importa chi sei, mi basta perdere l'incanto di una nostalgia. Follia in metropolitana? Eh sì, è perché lunedì. Il lunedì è cominciato con un pianoforte in metropolitana. Proprio nel luogo dove un minuto dura 30 secondi c'era un pianoforte ed era messo a disposizione dei pendolari, messo apposta per ingannare la fretta. In verità ce n'erano più di uno, ce n'era uno per ogni banchina, uno per ogni ingresso, era una coda e tutti accordati sullo spartito, storto e però dritto, di una gioiosa armonia che è quella della follia. E anche a voler correre per andare incontro alla giornata, nessuno sfuggiva alla vista e al suono dello strumento, i cui martelletti invogliavano alla dolcezza di un colpo di testa, perdere la corsa e quindi restare lì, in metropolitana, per fare musica, con un brano dove il minuto dura la vita intera. Tutta di follia, la follia d'amore di Rafael Gualazzi. Cermi mai, non costringermi mai. Abbandoniamoci alla soglia della mia pazzia e vedrai. Ah, ci dà dolcezza questo buttafuoco. Io l'ho detto, ma però io prendo la metropolitana, so. Però non lo so, ma non tu, accade qualcosa, che fantasia, cosa? Ma io sono stupito, perché devi c'è portarti il tappeto. Tipo volante. Tappeto, certo. Volante. E quel tappeto ti fa volare. Davvero? Così. Mario, va, portaci nel mondo. Vi porto invece nel mondo, dai. Venite con me. Questo è un bellissimo pezzo che ho ripescato dalla memoria. Ride Like the Wind, Christopher Cross. Sì, insomma, non mi ricordo più di quanti anni fa è, però senti che roba. Questa aveva una voce mica male, anzi, canta ancora. E vabbè, andiamo col vento e cerchiamo di capire che cosa succede con Pietrangelo e Giovanni. E c'è il G7 e gli Stati Uniti sono in grandissimo pressing, ne stavamo parlando insieme prima di cominciare la nostra trasmissione, e su alcune linee guida, diciamo. La prima è quella che bisogna mettere Putin ancora più in difficoltà, quindi linea dura con la Russia. C'è un pressing molto forte, sotto traccia ma neanche troppo, sul Regno Unito per aumentare la spesa nella difesa. Questo riguarda anche noi, attenzione, e tutti quanti quelli che sono sotto i target di spesa della NATO. Il conflitto in realtà non è l'Ucraina in questo momento, è la FIFA. Non so se è apparso chiaro quello che sta, certo, accadendo. Che la noi l'abbiamo raccontato, raccontando, esatto, come nella storia. Sì, il calcio, il lo calcio, sport in generale, la geopolitica è oggetto così dello scontro est-ovest. Quindi la situazione è interessante perché insomma è arrivata la conferma che se saranno trovate prove di corruzione nell'assegnazione dei mondiali del 2018, la FIFA leva tutto, quindi la Russia rischia di perderli. Sai, se li perde il Qatar, vabbè, ma se li perde la Russia, diciamo che è meglio di no. È un po' più di un incidente diplomatico. Sì. E Renzi ha battuto i pugni sull'immigrazione nel posto sbagliato, però devo dire, perché il dossier immigrazione non Europa, è Europa, non è G7. Esatto, quindi bisogna tener conto di questo. C'è un solo asse vero, certo, quello tra Obama e Merkel, molto chiaro. E c'è un paese che è in rapida fase di sgancio dall'Unione Europea, che è il Regno Unito. Quindi secondo me ci sono sul tavolo molte cose, ma come molti organismi sovranazionali in questo momento il G7 non serve praticamente quasi a nulla. Io penso che per servire a qualcosa deve tornare a essere G8, minimo. Perché senza il G8, senza la Russia, le cose sono molto molto complicate e per noi sono molto molto negative. Pietrangelo cosa ha da dire? Basta sentire quello che diceva Gentiloni. C'è una contraddizione in termine. Visto. Già il fatto stesso che esista la cosiddetta Unione Europea e che l'Unione Europea escluda la più potente, la più importante delle nazioni europee, la spiega meglio la situazione. C'è una malafede di fondo e c'è un atteggiamento che è quello di escludere il vero spirito europeo da questa costruzione artificiosa, artificiale e dannosa. Beh, ricordiamo per i nostri ascoltatori cosa diceva Gentiloni. No, infatti Gentiloni pattinava, diciamo sostanzialmente diceva che la Russia non bisogna escludere, però non si possono lasciare gli alleati occidentali. Insomma, stava molto in mezzo al guado. Sara Tardelli. Io manterrei in tono alto, scegliendo una cassa di prestigio, per esempio questa, in mogano rifinita in palissandro, foderata in seta e raso trapuntato, una sciccheria. No, guarda, ascolti, la mamma era una donna semplice, quindi noi vorremmo qualcosa di un po' più sobrio. Questa? No, abbiamo optato per questa. La più economica fra economiche, ma va la potete fare da soli con 4 fogli di compensato. Questa volta tuo marito non potrà dirti di no. Vi aiutiamo a farlo a pezzi. Questi slogan pensati apposta per il mercato delle pompe funebri non sono niente in confronto alla promozione che ha lanciato un'agenzia di pompe funebri di Roma. Ti offre un weekend con il morto, ovvero seppellisci il caro estinto e poi parti per un weekend per 2 persone. La trovata pubblicitaria che ha fatto centro, perché il sito dei Becchini ha registrato 15.000 curiosi che hanno cliccato come disperati per informarsi sulla promozione. E allora, che dire, buon viaggio a tutti! Siamo un po' la famiglia. Posso Adams, chiederti dai. Una cosa? È un exit strategy. Sì, ma l'offerta sulla bara. Com'è? Non è male. Salamino. Chi semina vento raccoglie tempesta. Erdogan in Turchia ha perso le elezioni. Certo, avesse avuto l'Italicum, il sistema elettorale di Matteo Renzi, oggi avrebbe la stragrande maggioranza di parlamentari con sé. Col 40% non ha però la maggioranza assoluta, non ha vinto, e siccome si scrive dritto sempre su righe storte, si può ben dire che il raccolto corrisponde alla semina. L'opinione pubblica occidentale è contenta assai del risultato ottenuto dal partito dei curdi. Le traversie di questo popolo coinvolgono un'area estesa del centro Asia e siccome è la geografia a determinare la storia e mai il contrario, si può intuire qual è il percorso tracciato. La disgregazione di quello che appena ieri sembrava un granitico progetto, quello neo-ottomano. Erdogan ha seminato non poche ambiguità, innanzitutto con gli Stati Uniti, che sono felici di allentare e poi strattonare il guinzaglio del lupo. Ha seminato poi col buio più fitto del grande gioco, campi d'addestramento per i cosiddetti ribelli, per poi gettarli nell'inferno siriano. La storia di Erdogan, il politico che ben fece sperare tra i protagonisti, si porta adesso allo stallo nel grande gioco. Ha seminato vento, inizia la tempesta e siccome crolla il sultano, il califfo neppure se la passerà bene. Posso aggiungere molto interessante. Sì, posso aggiungere una cosa, certo. Un fatto appena annunciato. Per dire quanto è importante la Turchia per l'Italia, il gruppo Astaldi ha appena firmato un contratto da 5 miliardi di dollari per costruire un'autostrada. Di adesso un gruppo italiano, per gli italiani la Turchia è un mercato molto importante, quindi certo. Tutto quello che accade giustamente ci riguarda molto, come diceva Pietrangelo, ci riguarda. E intanto San Francisco Bay. Vabbè, è lunedì, dobbiamo anche, no, avere una bella giornata e speriamo anche una bella settimana. Questo è un pezzo degli Stereophonics, bravissimi, sentite. E in realtà da San Francisco Bay vado un altro posto molto bello, che è l'isola d'Inghilterra, perché qua se la faccenda del Brexit sta diventando molto interessante. Non c'è più solo l'idea del referendum anticipato, ma c'è una guerra interna ai Tories, ai conservatori inglesi, in cui Cameron ha giocato una carta a sorpresa. Ieri si è formato un gruppo, i conservatori per la Gran Bretagna, che vogliono sostanzialmente l'uscita dall'Europa e vogliono fare campagna ovviamente per questo, solo che Cameron non vuole che la facciano i ministri, perché lui pensa di poter spuntare condizioni, quindi un accordo molto buono con l'Unione Europea, e quindi alla fine evitare, insomma, solo vantaggi per la Gran Bretagna. In ogni caso questo è l'obiettivo. Già è così, mi sembra, non sarebbe caso, una novità enorme, No, direi di no. Vogliamo ricordare la perfida Albione? No, ma voglio dire, mi sa che nelle trattative sono abbastanza bravi. Sono abbastanza bravi. E chi sta nel governo? La conclusione è questa: non potrà fare campagna per il Brexit, pena l'esclusione dal governo, appunto. Mix 24. Salamino. Che brutta cosa fanno con ma miseria nera, e peggio culere che ti fa consumare, non manca me. Dura la vita del lavoro culturale, perché sa di sale il patrimonio artistico e anche il consumo del bello e il nutrimento della memoria. E mentre il ministro dei beni culturali Dario Franceschini alza l'ingegno e propone un fondo per la pubblicazione non di inediti d'autore ma di mai editi, solitamente d'autore, che stampano a proprie spese, che è una sorta di applicazione della demagogia all'albero maestro delle muse. Ecco, mentre capita tutto ciò, ancora una volta a Caserta la Reggia viene chiusa e migliaia di turisti vengono lasciati al sole. Come mai? Tutto per un'assemblea sindacale. Eh beh, certo. Tutto ciò nel giorno dei che musei domanda. Aperti. L'assemblea era stata convocata oltretutto per studiare una protesta, una qualunque forma contro gli abusivi che assediano il sito. La tensione è salita alle stelle ed è dovuta intervenire la polizia per far aprire i cancelli. Ma ora, bravi, pare che ci voglia un presidio fisso delle forze dell'ordine per salvaguardare l'ordine pubblico lì accanto alla Reggia di Caserta. E però uno si pone una domanda: se per esempio il problema sono gli abusivi, non sarebbe molto più semplice arrestare gli abusivi? Beh, così tu dici, giusto. Però perché no? Perché chisto è chisto paeso. Come tutti i lunedì, è il momento del lunedì libro di Alessandra Fiori. Tra una fine e un nuovo inizio, cosa c'è in mezzo? Che succede in quel momento di magica, spaventosa sospensione in cui tutto si trasforma? I momenti di transizione, dolorosi, necessari, gioiosi anche, sono al centro di Isola Grande e Isola Piccola, l'ultimo libro di Francesca Marciano. Scritti in inglese, i racconti che compongono la raccolta, prima che in Italia, sono stati pubblicati negli Stati Uniti, dove hanno ottenuto recensioni entusiastiche da critici solitamente feroci, per poi essere finalisti del prestigioso The Story Prize. 9 storie sul cambiamento e sulla crescita, in cui i protagonisti viaggiano, si spostano e il loro movimento diventa compagno di un mutamento interiore più profondo. Quelli descritti dalla Marciano sono luoghi dell'anima che con i personaggi interagiscono, li influenzano, ne diventano espressione. C'è l'isola sperduta nell'oceano indiano in cui Stella ritrova Andrea e il loro vecchio amore si mescola alle onde diventando specchio della distanza tra le aspettative e i fallimenti. C'è la Venezia del Festival del Cinema e l'occasione per Caterina di comprare un costosissimo abito di Chanel che, come un'illusione, non verrà indossato mai. Ci sono le certezze di un matrimonio che si sciolgono in poche ore e lo sbocciare di un primo amore che si consuma nell'estate di un villaggio greco. C'è tutta la fragilità dei sentimenti e dei legami, insieme alla serena vulnerabilità data dalla consapevolezza. Isola Grande e Isola Piccola, di Francesca Marciano. Buon piani. Grande. Francesca Marciano, donna in gamba e coraggiosa. Molto. Mario, c'hai una bolla? Sì. No, vabbè, sono in chiuro, ma in realtà è un po' una cosa tra Parigi e Londra, questa è interessante. Il New York Times ha deciso di spostare sempre più risorse del suo antico bureau europeo, che la cui sede è sempre stata a Parigi, prima con l'International Herald Tribune, poi adesso con l'International New York Times, che sono la fusione della stessa cosa, e lo sposta a Londra, sai perché? Beh, per quello che hai raccontato fino adesso. Le regole del lavoro a Londra sono migliori. Ah, solo per quello? Sì, e beh, solo. Pensavo che ci fosse una ragione più politica. Anche, ovviamente. Sembra che quello che capiterà in Inghilterra nei prossimi mesi, forse sarà più interessante molto di quello interessante. Che capita a Parigi. Parliamo di staff di tante persone, 60, 70, 80, 100 persone che lavorano allo sviluppo digitale di questi giornali che ormai sono diventati trasnazionali. È interessante seguirne l'evoluzione. Sì, senti, dopo il giornale radio, come sempre, ci sarà la nostra storia. Marina Milone, dove ci porti oggi? Alcuni vedono la realtà e si chiedono perché. Io sogno l'impossibile, mi chiedo perché no. Era la voce di Bob Kennedy, fratello del presidente John, che come lui ha condiviso la sua stessa sorte. Infatti, dopo 5 anni dall'omicidio di Dallas, il 6 giugno del 68 anche Bob verrà ucciso, quando era praticamente ad un passo dalla Casa Bianca. E oggi raccontiamo la storia di quest'uomo carismatico e del sogno americano degli anni 60. Bene, grazie. Dopo il giornale radio, allora, la storia di Bob Kennedy. Ma Mario, c'hai ancora una bolla? Sì, una cosa di un amico che parla. La verità è giusta, la verità funziona, la verità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. La verità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. Beh, insomma, Gordon ci mancava. Gordon Gekko ci mancava per dire due cose. La prima è che la borsa turca sta andando a rotoli, siamo a meno 5,8%. Cioè, queste elezioni hanno provocato davvero una rivoluzione. Sì, e la lira pure, la lira turca, non quella che è nostra, che non c'è più. E la terza cosa che voglio dire è per ricordare che noi ce ne eravamo occupati. Ti ricordi quando dicevamo che Deutsche Bank, insomma, non aveva proprio una gestione di quelle che gli azionisti dovrebbero essere contenti? È saltato il CEO. Saltato il CEO e in borsa guadagna l'8% in questo momento. Comunque questa vicenda turca sicuramente avrà riflessi molto, molto seri su tutti gli equilibri. Intanto, porterà avanti nello scacchiere due giocatori, la Russia e l'Iran. Per risolvere la crisi che sicuramente adesso è quello che è interessante vedere è il rapporto che si sta creando tra l'Arabia Saudita e Israele in contrapposizione a questo noi vedremo delle belle. Seguiremo tutto questo. Intanto un Christian da Milano ci scrive a proposito di quello che ha raccontato Sara Tardelli: a Milano c'è l'outlet del funerale. Beh, una notizia. Non so cosa fare, se stare con le mani ferme qua sul tavolo. Mani ferme. Per chi non avesse perso parte di questa puntata, ricordo che si può ascoltare in replica questa sera alle 23. Prima della pubblicità e del giornale radio, Perdere l'amore di Massimo Ranieri. E adesso andate via, voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me, me che fino a ieri